Sì, è un progetto che è nato da una collaborazione tra il quartiere San Donato San Vitale e il settore delle biblioteche del Comune di Bologna e nasce, diciamo, come idea qualche anno fa e si sta concretizzando ora con in sostanza l'istituzione di alcuni punti di biblioteca, appunto biblioteca diffusa, perché sono veri e propri punti di prestito bibliotecario dislocati sul territorio del quartiere, in modo da portare questo servizio e la conoscenza, insomma, dei servizi bibliotecari e in generale della lettura più vicino possibile ai cittadini, soprattutto nelle zone del quartiere più decentrate rispetto alle biblioteche che già esistono. Cioè, quindi concretamente, cioè cosa farete? Concretamente si tratta di punti di prestito che vengono attivati presso sedi di associazioni o case di quartiere, dove ci sarà la possibilità proprio di usufruire del prestito bibliotecario di alcuni libri che sono stati selezionati e oltre a questo anche attività collaterali che, diciamo, possano avvicinare gli utenti alla lettura, per esempio gruppi di lettura, lettura ad alta voce o altre attività, insomma. Tutto questo nel quartiere San Donato? Nel quartiere San Donato San Vitale, esatto, questi punti prestito sono 6 e un'altra cosa, un aspetto molto importante di questo progetto è il fatto che impiegheremo dei volontari, circa una trentina di volontari che si presteranno ad essere presenti nei punti prestito e fare queste attività. Vi rivolgete un po' a tutti, diciamo. Sì, è un progetto rivolto ad un pubblico che può essere di ragazzi, di giovani, bambini, adulti. Tra i punti c'è anche un punto di casa, una casa di cura, diciamo, per cui lì ci si rivolge anche alle persone che sono presso la struttura, i loro familiari, visitatori e altri frequentatori del centro. Questa iniziativa nasce da un'ottima coprogettazione tra il quartiere San Donato San Vitale, l'ufficio Reti e le biblioteche, il settore biblioteca, in particolar modo le due biblioteche del quartiere San Donato San Vitale, quindi la biblioteca Scandellara e la biblioteca Spina. L'obiettivo è un obiettivo innanzitutto di prossimità e quindi di vicinanza anche fisica e di accessibilità della lettura e della conoscenza. Anche nei luoghi capillarmente, diciamo anche nei luoghi non immediatamente vicini alle due biblioteche del quartiere. Il quartiere è un quartiere molto ampio e ci sono due biblioteche che fanno un ottimo lavoro, devo dire, però in questa maniera si è voluto arrivare in maniera proprio capillare a coprire tutto il territorio, arrivando appunto in luoghi che siano immediatamente accessibili anche a piedi e vicini a tutta la cittadinanza, quindi dai bambini appunto agli anziani. Speriamo che sia un modello questo che faccia venire voglia anche agli altri quartieri. Noi ci siamo sicuramente come settore biblioteche, avendo biblioteche diffuse in tutti i quartieri, e siamo partiti grazie appunto alla collaborazione col quartiere San Donato San Vitale, ma il desiderio e l'intenzione è proprio quella che diventi un modello diffuso a livello cittadino. È importante specificare per noi come biblioteche che non si tratta di esperienze comunque molto positive e importanti come i book crossing o gli scaffali, insomma, di libri che si trovano anche già diffusi nella città, ma che c'è un impegno importante da parte delle bibliotecarie e del settore biblioteche, sia nella formazione dei 30 volontari che sono stati selezionati grazie a una call, che sono stati formati, e nella curatela, quindi nella scelta dei volumi da mettere a disposizione appunto per il prestito, volumi che quindi seguono dei criteri che cercheranno di rispondere assolutamente anche ai bisogni e desiderata di chi frequenterà i nostri punti di lettura e di prestito, e che non saranno sempre gli stessi, quindi ci sarà una rotazione e un cambio continuo dei volumi anche proprio per rispondere ai desideri e ai bisogni dei cittadini.